Hola. Che è avanti? Che è avanti, buongiorno, California da questo. Uè, fra, buonasera, Daniele. Ciao Daniele, Allora, vai. Scalda di motori qua. Provando stai. Brava. Sto guardando. Come stavo funzionando questo transmetter qua. Già funge. Ah, ma è bene, mi ascolti. E ti confermo, fra, dove sei? A casa di campagna? No, sono a casa adesso. Brava. Già arrivi bene, dai, forte e chiaro qua. Dottor Rogero. La radio buona. E ti conferma. Scappa. Gara. Aspetta un secondo, fra, che cambio una cosa qua. Fra, ci sei? Ora. Vabbè, fra, mi senti, sì? Sì, ti sei. Nel frattempo sto provando ancora, mi voglio ascoltare. Ho aperto l'LC di questa radio e volevo sapere se stava andando bene. Penso di sì, però. Scappa. Esci a vedere. Cazzo, è una bella radio, cioè. L'ho aperta perché era chiusa, capito, da lì. Super 5, fra. Va, più che bene. Brava. C'era la LC tutta chiusa, capito. Bene, vega. Va bene. Io sto andando con me, con Gervatta adesso. E che track e rock and roll, liscio come l'olio. Vede quanti voti da questa. Ora, quasi 10 modulati. Brava. No, questa ne ho due. È già spinge, è già sale. E questo è l'80 canali, capito? Un apparecchietto piccolino, però non c'è FM. Già va bene. Tanto l'FM si usa poco e niente. Ma mi interessava se andava bene la radio, capito? Se era forte, se era la grande. Era la grande, va più che bene. Niente da dire, va bene. Dai che la chiudo, là. Dai, non sono qua, fra. Hola. Mi senti? Marco, quanto è? Aumentato il segnale. Allora, come ieri, 9 più 5 pieno, non ha aumentato. Non ha aumentato, perché ho salito parecchio. Fatto sta che qua non ha aumentato, aspetta, è Feghina manetta, tutta manetta è qua la ricezione. Uguale, Antu, 9 più 5 pieno, come ti dicevo ieri, no? Praticamente non ha fatto nulla, non ha aumentato niente. Cazzo, è molto più alta adesso. Però potrebbe non essere aumentata da me, ma potrebbe essere aumentata anche da altre stazioni invece. Vediamo più tardi quando entrano gli altri cosa dicono. Vediamo se c'è qualcuno all'ascolto che può dare un controllo avanti. Natalino, ci sei? Nuda, tutti dormibiso. Oia. Ascolta, di quanto l'hai alzata più o meno? Un bel po' di metri, più alta, un bel po', insomma sarà diciamo 5-6 metri in palo ci saranno. 5-6 metri in più, minchia, eppure qua non ha aumentato, anzi è strano, anch'io dico che è strano. Ascolta, è in ricezione, è aumentato, guarda, io sono sempre con i soliti 3 watt, col 3009, antenna senza scatolette messe né lineari né nulla, guarda. Bravo, molto strano. Adesso se ne va per parecchio, magari da qualcun altro va un po' di più, non lo so. Adesso vediamo quando entra Luca del Monte, com'è. Sì, guarda, secondo me ha ragione, potrebbe aver aumentato da qualcuno, da me no, anche se mi sembra strano anche a me, eppure quella è una zona buona, cioè, vabbè, i watt già sono gli stessi di ieri, sì, non è che hai diminuito, no? I watt sono sempre quelli dell'apparecchio, no? Guarda, ma dovuta, boh, che è strano, questa cazzo di cosa non aumenta. Boh, eppure cazzo ho salito parecchio. Ah, magari da qualcun altro va un po' di più, Infatti, magari sono tutti all'ascolto, io date un controllo Antonio che sta provando un'installazione nuova. Cazzo, tira già stata là, che dell'aria tira già stata e tanto Comunque adesso in città, ancora sempre con l'esco, in città può darsi che non si noti tanto, però in distanza, magari fuori città, nei paesi d'intorno, tipo Muros, come Pro Torres, Alghero, può darsi che abbia migliorato, anche nelle borgate lontane, no? Capito? E stasera entrerà un po' di gente e chiederà i controlli, vediamo cosa cambia, e se no mi, già lo sai, 747 ti toglie la paura a vedere se impenna il segnale. Uia, c'ho la narice sinistra fuori uso, chiusa completamente. Vedi, sono tutto risicciato. Va bene, dai, adesso mi ritiro i ferri piano piano, è la roba. Vediamo se entra qualcuno, vediamo un po' se si è migliorato, perché è un casino. Vediamo un po', le stazionarie sono basse, l'apparecchio non scalda. Si andrà a vedere. Stazionaria, vediamo il watt, da però stesso, 12, no, poco io, forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che ha fischiato sopra, avevo visto qualcuno, o eri tu che sei stato come un incremento di segnale, hai toccato qualcosa, qualche spezzone? No, negativo. Perché più segnale? No, ma ho visto un segnale, sembrava più forte, non capivo se eri tu o se era uno in sovramodulazione. Avanti chi vuole entrare? Ciao Marco, sono io, la rifugia, sta parlando alla radio Marco lì, come mi ascolti? Ciao Franco, allora, fai un passaggio lungo, sei a casa, poi me lo dici, dai, fai un passaggio lungo. Sì, capa, sono a casa e sto provando una radio con microfono normale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, è una modulazione appena, no, sarebbe buona, forse appena nasale, come un microfono di serie, sai, quelli non troppo performanti. Per il resto sembra che vada abbastanza bene. Non è molto calda, amico, la modulazione. Se sei a casa, guarda il segnale di Antonio che ha alzato, alzato il palo. Non è a casa, Franco. Santiago 3 sta arrivando qua, questo apparecchio. Fra, ma tu non sei a casa, sei 9.15, sei cos'è, Bramobile oppure altro QTH? No, io sono a casa adesso. Ripeto, stavo provando questa apparecchia, vedo come stavo scendo, tutto qua. Ehi, è come dire, non lo so, come quei microfonini, sai, un po' piccoli, economici, di quelli che danno in serie, tipo, non lo so, che radio è? Marco, mi senti? Dai, ti ascolto, è un Midland vecchia epoca, una tata canari. Sì, Anto, ti sento. Il segnale è sempre quello, Anto. Modulazione bella, bella calda. Capa. Ma lui non è a casa, è da un'altra parte. No, ha detto che è a casa. E comunque, Fra, in effetti, per essere a casa, o c'hai 2-3 watt, ma sì, non c'è niente, 9.15 solo. È un bel basso qua. Capa. Guarda che forse hai toccato qualche cosa. Boh, ma infatti è strano, Franco qua arriva molto forte da lì, 9.20, 9.25 anche. Ok. Che cosa ha toccato? se non è possibile, è troppo basso e da qua. Aveva detto che gli arrivavi tre. E da casa sua non puoi arrivare tre, con quell'antenna alzata anche. Oh. Vabbè. È impossibile, ma pure lui arriva basso, c'è qualcosa di strano già. Cioè l'aereo 29-15 a te vuol dire che è proprio. Cioè la testa dovrebbe arrivare con un segnalone. Sì, forse sta provando, ho cambiato apparecchio. C'è un freddo qua, io sono in pigiama, lo devo staccare, dai. Devo evitare di pigliare freddo assolutamente. Ci sentiamo, comunque qua invariato. Ok, dai, ci sentiamo. E fai anche qualche foto dell'installazione magari, così, per tanto per, così, per archivio. Ok. Dai che vado. Vado a mettere a posto. A te, sono Marco, buonasera. Guarda un po' come sto uscendo, 3, 4, 5, 6. Sembra bene, Popo, fa bene, anche di modulazione e tutto. Quel problema non ce l'ha più comunque. Era i potenziometri del, come si chiama? Il volume, l'accensione, RF gain e mic gain. Li ho verificati e adesso non ti fa più quella, quando lo accendi quelle scariche strane. E sembra a posto, non fa più scariche del coso. Meglio così, dai, qui non ci arriva niente alla fine. No, niente, era perché non avevi più, cioè, quando non lasci l'apparecchio fermo, succede come al mio. Comincia a fare scariche strane, a volte accende o accende, il terminale dove faceva così a me. Hai capito? Il potenziometro, a volte accendeva, a volte non accendeva, accendeva solo, accendeva 4-5 volte, poi quando pigliava il coso lo stato tutta la sera acceso. Quindi è quello. Adesso non lo fa più, adesso è a posto. Meglio così, dai, meglio, meglio. Cacciara, una disperazione era di nuovo, ha detto porca miseria, anche questo che fa, ciao ciao, no eh. Ah, già è a posto, già. Non c'è niente, non c'è niente in pratica. CVC nei potenziometri e basta, ma lo siete immaginato, come l'ho acceso ieri notte, sentivo questa scarica strana, io dovevo e... Poi tutto attratto, stamattina è sparito tutto, cioè è sparito nel senso che l'ho acceso, poi ho toccato il potenziometro e si è rimesso a posto. Ho aiutato e proprio me la lì, non è questione di l'ingresso dell'antenna, non c'entra niente. Cava, cava. E questo che è? C'è il suo microfono originale a dove? Questo è il suo microfono originale. Cava, cava, già sta uscendo bene. Va bene, va bene. Ehi, comunque hai questo che è manetta di potenza, le potenziometro, poi l'LC è manetta lo stesso. Come quello che ho dato io a coso. A bombolino, tale uguale, precisi. L'unica cosa che c'è è il circuitino per come si chiama, per l'ascolto e basta. Cava, cava, bene veda, bene veda. Meglio così allora, dai. Perché ancora l'ho sentita a bombolino, se l'hai fatta sentire con la radio. E vabbè, poi c'è l'eco, c'è quello lì, l'assomiglia a quello del, come si chiama, c'è un trim in fondo, in pratica sarebbe la ripetizione. E l'audio, basta, non c'è nient'altro. Poi per il resto è monta gli integrati uguali in caso del Saturn Echo, dell'eco del Saturn Echo. Cazzarola. Un mini Saturn Echo, eh. Come eco monta lo stesso integrato del Saturn Echo e anche delle Metal 100, l'MN qualche cosa. Capito? mancava, ragazzi. E poi non trovo le scarpe anche col PTT, quando devo agganciare l'effetto si inceppava. Faceva il bip quando schiacciavi trasmissione e quando mollavi, vabbè, poi è normale. Adesso però me lo sto facendo. Vuol dire che si è risistemato. Devi accenderlo parecchio, questi apparecchi qua, il discorso è quello. Quando lo lasci fermi, purtroppo succede così. Ragazzi, lo so, l'ho trascurato un po', specialmente è quella, ce devo sempre mio, ho questo, ho il superstar, e quello era lì, in parcheggio era. Mettete in macchina questo, con la magnetica. No, non voglio incasinarmi nuovo le macchine, Antone, se no già l'avrei fatto, sì. E mica ti casino, ci metti la magnetica, ti compri la magnetica, la Turbo 2001, quella corta, con la magnetica, 51 euro l'ho pagata io a Fosaro, ti metti la magnetica, questo qua gli metti l'attacco a 100 sigari, il baracchino, quando vuoi lo stacchi e te lo lasci in cofano. Ti lasci in cofano anche la magnetica e quando esci hai voglia di usare il baracchino te lo agganci. Così me lo usi tutti quanti, non è che devi stare cazzo a fare il giro di casa, no, degli apparati. Bene, dai, adesso vediamo, dai. Ci pensiamo e vediamo. L'unica cosa da fare è quella. Io ti ho 50 euro spesso. L'antenna è magnetica, è la latta l'ho prestato l'amico mio, capito? Ce l'ha in macchina lui, c'era la magnetica mia, non è tanto larga, però va bene, con la Turbo 2001 quella corta, te la metti lì direttamente in macchina nel cofano, quando, per dire, col baracchino, quando vuoi usarlo non fai altro, il baracchino l'attacca a 100 sigari, quando lo vuoi usare prendi e parli, almeno ti diverti, capito? Tanto quando esci almeno 4 ore 20 minuti, dopodiché c'è un film nuovo in cofano, lo fai in culo, lo nascondi dietro dove c'è la, non lo so, la, qualche posto, qualche buco nel cofano ci sarà, lo nascondi dietro e il baracchino lo fa in culo. Sotto metti sotto la, come si chiama, al sedile e ce l'hai lì. Ehi Antone, vediamo di cosa organizzare, dai. Ui, se no fai accendere questa, accendi quella, e c'è ancora il 48 fermo io. Ma succede così, quando c'è gli apparecchi fermi un sacco di tempo, ti dà problemi. Anche io ho avuto problemi con 2009, con l'altro, che giù a casa di Giovanna, c'è anche l'antenna, se la sta vivendo a casa di Giovanna, figurati, quella che non ha pesca. Poi quando ne hai troppi succede così, perché poi sta sempre il fuoristrada, poi tutto il arrivato il fuoristrada e è rimasto lì parcheggiato. Cosa è successo adesso? Aspetta un attimo. A popo. E che senso sono riportati un pochettino? Babà, sono Romacco e Fendi. Aspetta che mi stanno chiamando, Antone. Ora. Ripasso il CRC del potenziometro della potenza. Aspetta, non è che sono al telefono. Brecco. Sì, avanti. Giovanni, terzo pittino, buonasera, Antonello. Ciao Giovanni, ben sentito, salutoni. Eccolo qua. minuti e rientro subito. A te, ci sei? Bobo. Ma mi pare che non c'è ancora. Ciao, buonasera, ciao Giovanni, ben sentito, buonasera. Si è allontanato Pomponio? Sì, si è allontanato un attimino. Kappa. Va bene, va bene. Stai arrivando bene anche di radio, vai, va bene, va bene. Cos'è un'altra radio questa? È sempre la stessa, con l'altro microfono. Avevo cambiato solo il microfono. Già funge. Va bene, va bene. Lo sto provando solo adesso. Sì, confrontavo altre volte, già va bene. Aspetta che vorrei mettere in moto un altro macchinetto a vedere cosa dice. Aspetta un secondo, lasciami 2 minuti che cambio e fai così e lo sto accendendo, aspetta. Guarda un po' questo, Giovanni, bello porto. Canta le rose, trovai. Questo era tanto tempo fermo. Quindi non so cosa dice. Aspetta che questo lo metto al minimo, aspetta. 1, 2, 3, 4, prova. No, meglio prima. Cosa, Giovanni? Era meglio prima, hai staccato qualcosa? No, che mi sono abbassato leggermente, aspetta, ho detto, com'era? Guarda un po', 1, 2, 3, la peppina sei passato. Taglio su 5 il segnale, allora. Cara. Giù, ogni tanto sbaglio anche tu. Sei stato il microfono, giù. Lui. Ora. Vettura lo devi mettere quello. Cosa? Lo devi mettere nella vettura. No, nella vettura e poi lo tocchi. Questo era lo stesso da combattimento, questo è settolare. Questo avrà meno di 18 anni. Certo l'appoggio. Vabbè, tampone. Fatto, a posto. E no, è il potenziometro della potenza. Adesso non lo fa più scarichi. Adesso è a posto. La direzione lo fa. E va bene. Guarda, tu stai Antonio. E ritornerò, sono un po' avanzato. Quella è la situazione. Perfetto. Hai 5. Va bene, sta posto, no, va bene. No, va bene, è a posto. Aspetta, non sta tornando, sta forza. Quando di nuovo lo aspetti? Sa che ti ami di CRC. E così almeno sei a posto. Aspetta, senza quando uno sento una vita, attenzione. E vabbè, l'importante è che si guarda. Cavaliere. Ehi. Ma cazzo di cosa? Gli sto fiscando perché c'è una cosa maletta. Allora, ecco qua. Ecco, adesso non fisco, non fluscia virus. E poi è valida questa cosa, ma comunque si era le palle ascoltate e fai un cazzo in teoria. Io avevo eliminato, ma per ascoltarti basta un paio di cuffie, ragazzi, con un apparecchio e ti ascolti. No, nera. Aspetta che sto stringendo la basetta. Ehi, Antonio, come hai fatto di sotto? Come ti metto il segnale, tu ritorno. Io? Sei sicuro, sì? se ce n'è un qua un cazzo. Ma non è che c'è andata a sta camminando tu? E lo svita è fisso. Aspetta un attimo che mi metto cazzo il coso. Eccolo qua. Ma me la colgo subito nel caso. C'ho la parico senza antenna, quindi se c'è qualche variazione di segnale me la colgo subito. Sembra stabile. Questo è perfetto, Antonio. La prossima volta che si sta prendendo qualcosa, Mario, sono io, poi questo che sta dando i numeri. Secondo me sì, no, perché sono stabile, aspetta un attimo. Ah, te lo dico subito cos'è il problema. Allora, c'ho il PL. Cammina, hai capito? Con i piedi di Fusaro. Se lo tocco, a volte fate. Va in fondo, a volte no. Ecco perché cos'è il problema, come l'ho girato. Adesso è agganciato in fondo. È fermo. Capito? Sono quei piedi di Fusaro, cioè pensate quelli per la 58 che quando vai a stringere arriva a un certo punto, poi non scendono sino alla. Non bloccano. Uguale era. Ciao. Bene, Eva. Riprendi, Giorgio. Stavo soltanto tu, non è troppo rumoroso, va bene anche ti sento, guarda, ci dite il riso, non si vuole troppo rumoroso, sembra che stia ammettendo qualcosa. Ma che io? Sì, Antonio, rumoroso ti sento. Mi senti? Tu sei rumoroso più di me la vetta, con quel VM sei. Sì, adesso presente un tipo, neanche una parola. Ecco, c'è proprio la canzone americana, cosa vuoi di più? Un lucano. Non lo voglio attaccare il lineare, perché se no ti avrei attaccato il lineare. Così mi avete sentito bene. Sì, se ti ho sentito, quest'ultimo passaggio ti ho sentito bene. E via, siccome c'ho un lineare, cioè un lineare. Lineare ce l'ho, il PL che non serve un cazzo, la verità. Perché a volte se ne vanno a fare, come scaldo se ne vanno a fanculo i piedi di Fusaro. Tu li puoi fare 5-6 volte al giorno, quello che è, il problema è sempre quello. Dopo che scaldano, se ne vanno in, non conducono più. Me l'ha fatto già 4 volte, me l'ha fatto, anche con Saturnecco. E gli ho detto, cazzo, tu mi manca il tuo segnale. Che cos'era il capetto del 1258? Non serve un tubo. I piedi di Fusaro sembrano quei piedi di cinesi, cazzo. Io sono sotto problema e mi devo prendere a L perché quando a un certo costante l'avevo messo e adesso sono delle pareti e ci schiacciano e sto sempre combattendo con questi piedi. Ehi, non è che devo combattere io, il discorso che io faccio ce li ho, il discorso è che in pratica quando gli saldi sembrano a posto, dopo che sai, attacca da una parete all'altro, ti crea problemi, hai capito? Non fa più massa. E quindi te ne scende la ricezione a zero, perché la tavola ha detto, cazzo che stava, stavo pompando con l'IA fino a poco fa e non sento più nessuno. Allora ho preso, ho controllato, c'era ho staccato il PL, l'ho messo attacco diretto e sentivo benissimo, quindi figura, ma ho rischiato di bruciarmi il coso, la verità, il baracchino, perché la portata la schiacciava, però non c'avevo ricezione, non c'avevo massa, e quindi devo fare tutti i PL in macchinette, bisogna che me li compro, perché sennò io rischio di bruciarmi tutto. E qua non mi sento bene, ti sento bene, non mi quasi incomprensibile. Anche ti sento male, non è che ti sento bene, me la verità. Quindi figurati tu, c'è propagazione su questo canale. Propagazione americana, quindi è logico, tu sei produttore, sono assassi, cosa vuoi di più? Però io sono stabile, ho l'altra parata acceso, mi sono guardato col Twitter, in pratica il segnale non se ne è più sceso, è a posto adesso. Poi si conferma, no, da te sto parlando al sotto della pista anch'io. ma questo piede è un casino mio, capito? L'altra notte io, quando c'avevo Saturno, stavo usando Saturno, ecco, tutto il tanto mi è sceso il segnale a zero. La portata la scacciavo, il relè scattava, però non c'avevo ricezione. È come se mi avessero tagliato il cavo, la massa del cavo. E quindi ho preso, ne ha staccato tutto e gli ho detto, ma ce la faccio a bruciarmi l'apparecchio, ho detto, per uno spettone di merda. E quindi ho lasciato il lineare da una parte, di qua, adesso mi farò ricompro il cavo questa settimana, vado, scendo dalla fusata domani, dopo domani mi compro oggi 60 metri di rigido, 58 va a far cura, nuovo. Inutile stare con questo cavo di ciò vecchio, intanto non serve a nulla. Non riuscivo a sentire più nulla, si sta chiamando anche sopra. E poi stavo arrabbattando con la moto al volino. Oh Iulia. Va bene, va bene. Ecco, i fiati miei sono identici, io sono lo stesso. Ogni tanto si trovano in ora a mano, se ne vanno. E lo dirò a me. Quindi figurati, lo fare i bini. Mi compri il piede nuovo, il cavo nuovo e vaffanculo, tanto sono vicino in tasca. Devo solamente andare a fusarlo, prendermi il cavo nuovo e piazzarlo nella mantola. Tanto sarà, senz'altro sarà bianco di colore, pieno d'acqua, sarà la calza, come minimo. Ok. Va bene, Daniele. Se vuoi venire a tirare la pareggia adesso, vieni, sto scendendo la cosa adesso. Da Sonia ci troviamo. Se passi da Sonia, mi invito una birra e te ne vai con l'apparecchio. Tanto l'apparecchio è a posto, non c'è niente. Ehi, Antonio, dai, facciamo così. Il tempo di salire sono andato, là. Ehi, siccome è scesa Simone adesso, quindi... mi preparo, scendo anch'io là, ci vediamo fra 5 minuti, 10 minuti, ti aspetto giù là, direttamente da Sonia, non ti preoccupare. Ok, ci vediamo fra te. Ehi Antonio, dai, va tra poco. Già lo sai qual è Sonia, sì, quella è via Carlo Felice, il bar. Quindi no, non quello di Andrea, no, è stato quello da Cuviti, quello che è la pasticceria. Ehi, bene, bene. Ok, aspetto lì là, mi invito la birra, sei a posto, e te ne vai con l'apparecchio tranquillo, poi stanotte lo usi e poi per gli altri devi fare lo stesso lavoro, devi pigliare il CRC, appentate, apritelo, ci sono dei forellini dove ci sono i potenziometri, li spruzzi appena appena il CRC, all'interno e lui torna come prima. Brava. Sì, però se ogni tanto si intrippa, va tutto. Questo si blocca, se la faccio con la faccio salvare anche questo. Si intrippa perché se non è che non le usi. Comunque passa le CRC e poi vedrai non si intrippa più, non ti preoccupare. A fuori di me. Va bene, sì, vai. Io chiudo. Aspettiamo un attimo se coincido, vai. Ma che fa? Ma Giovanni, chi è? Giovanni era. Sono rimasto esatto, dove va? Non ho parlato, vi stavo ascoltando. Ho sbagliato, sì, ma vi stavo chiamando perché Giovanni, voglio nulla, Dai, io chiudo e consultiamo l'otto, tu a tra poco, senza ordine. E sto mettendo, sto staccando il barattino, sto mettendo dentro la busta, ti aspetto giù da Sonia, ciao, a tra poco. Scappa le rose, vai, sono tu che ci fai a tutti, a dopo, ciao ciao. Ciao, ci sentiamo dopo, ciao. no era que estaba perdido, porque todo el comisario en el jodido que tengo miedo darle zapato, porque dañé el domingo, pero que no se me diga, ponte que puedo darle con los mis imperios, los políticos, tengo que tunearlo. Okay, so digo, acá me dio la ala. Cuando digo hola, es hola. Sí, correcto. Yo una pepe que me ha pasado allí. Le pregunté a alguien, le digo algo, que hace tiempo que estaba el 22 y el otro pues, hay trato que no me tenía que mandar. Y el otro no va a venir, no va a ir a tiempo que viene. Pues mira, ahí fue lo que tú dijiste, Aníbal. Y lo que me está marcando de pérdida es 1.2, 1.1 o 1.2, que te la puedo bajar con el pasta. Ahí estoy, hola, como usted dijo. Porque ya mira, pasó la prueba, ¿sí? Porque yo le he puesto pérdida porque al mismo 73 y yo le bajo ahí la base de 30 y no me da. Y estoy condenado con 10 vatios ahí, modulando 7 y pico, me lo he dedicado a seguir. Allora hai sollevato l'antenna, ho visto che hai sollevato, sono passato la moto. Già va bene, dai. Ora sei passato? Sono passato ieri, stamattina l'ho vista, se non mi ricordo. Se ieri mattina o stamattina l'ho vista. Sicuramente era l'ascolto ieri, perché l'ho fatto stasera. Mi sembrava festa, come stava più alta, ho visto così che era molto, poi non lo so. Ma stasera è sollevata perché. Ehi, ma c'ho questo QRM, cazzo, non riesco a capire che maledizione sia. Veramente, tu che scendi di gabbo. No, c'è qualcuno, c'è qualche motore a fianco a te, qualche pompa di calore, qualche cazzata, perché a me. Molte volte c'è quello che a me c'è la piscina e anche se non c'è attacca il coso, il robotto per pure fuscia, la piscina mi fa casino a me, mi aumenta il QRM, è pazzesco. Ti giuro che se lo scopro cazzo me lo dirò. Magari sa qualche motore vecchio di pompa di calore, qualcosa, boh, devi controllare qualcosa. Come si dice, non sto pensando che siano, boh. Segnali di telecamere, di cose, perché non è possibile. Abbiamo troppa roba, qui c'è il solito, c'è molta roba tecnologica, è un casotto, è un grande casotto. E come ti trattene? In bicicletta, no, te voglia? O passano di trappletti? Trappletiando, no, non è qua il problema, no. Qua va bene. È in deposito che è il problema. Ah, in deposito è il problema. Io pensavo era giù a casa tua. No, qua va benissimo. E allora ci sarà qualcosa vicino al deposito, dai. Qualche pompa, qualche cosa, boh, qualcosa ci sarà. Io sono quei cazzo di ripetitori che c'ho vicino, che mi sono venuti a macco. È probabile, probabile. Guarda che torre, alla veloce, da quando hanno aumentato, hanno aggiustato i ripetitori dei cellulari, c'è sempre RM, e sta causando un casino a Toro stesso. Cioè, basta, a Capodanno basta tirarle. Vedrà che non è causa di più casino. Hanno aumentato, cambiato qualcosa e Tore so che c'ha quel RM, da quando hanno aumentato la potenza, hanno cambiato qualcosa, non lo so. E scende il gabbo, un bel alto c'ha il QRM. No, io ce l'ho basso adesso è basso. Bianco per me che sta. Ok, adesso un po', dai. Boboli. Beh, Luca. Beh. Come andiamo, Luca? Chi è? Buon Natale. Sei basso in radio, chi sei? Come? Sei basso in radio. Basso? Sì. Cosa da adesso? Passaggio più lungo. Prova radio 1, 2, 3, prova. Ah, tu sei Mario, e non è forte la radio, Andare. E allora, sto a posto? Mario, quello che è a posto, e tu, a posto, finito hai con quella cosa là. Oh, Nagio ancora di là. Sono andato la settimana scorsa, mi ha fatto l'attacco e adesso devo andare a maggio. A maggio mi farò un altro controllo e dopo vedere lui se devo fare impronte e così via. Là. Tu qua, te hai iniziato a maggio l'anno scorso, io ce l'ho il... allora, vuoi vedere? Il 16. Basta, aspetta, no, perdona. Questa da staccare. Aspetta. Un attimino. 16. Di mercoledì. Allora, c'ho la visita, vabbè, da Lottorino. Il 16. Il 15 ho la visita da Lottorino. Il 16 ho il dentista, l'una e mezza. E poi 17 ho la visita dermatologica. Insomma, non basta mai, dai. Non basta mai, va. Speriamo sia tutto bene. No, io ho fatto l'attacco e mi ha detto che stanno bene, adesso mi vuole vedere a maggio, adesso non mi ricordo il giorno di maggio, dovrebbe essere verso il 20, dovrebbe essere più o meno. E dopo maggio dovrebbe essere, mi dà qualche appuntamento per impronta. Speriamo. Ho capito. Mari, anch'io sono nella buona strada, dai. Non lo so cosa devono fare mercoledì. Non lo so, sono sincero, non me l'ha detto. Ho detto solo un appuntamento e basta. Molte volte è capitato che sono andato mi così. Anche per parlare, cazzo, mi avviti tutto questo tempo, fa venire un orario di merda, telefonatemi, datemi un orario magari più, insomma, meno fastidioso, ecco, c'è anche tutta la mattina, faccio un salto, si può anche fare, no, un orario di brutto, tipo mezzogiorno e mezza, è un casino, vabbè, lì sono pieni di lavoro, E anche dove vado io in pieno di lavoro, anzi lei mi mette verso mezzogiorno, a una, no, verso quell'ora non mi va bene. Mi va bene, dopo dalle due mesi in poi mi rimette, e io insomma, uscire da lavoro è un casino, capisci? Faccio un servizio e non posso. E il servizio va fatto come normale, capito? Non posso lasciare gli utenti senza il servizio. Insomma mi fanno casino. Ma non c'è problema, me la prenderei dopo due mesi, alle 3:15, alle 3, capito? E mi va benissimo, se no che non sia roba più importante, allora è un discorso diverso, allora mi prendo una giornata e ciccia, dai. Se ci vogliono ore, sì. Un anno sono quasi. Vabbè, sono guarito. Sono guarito. quanto riguarda il lavoro che ho fatto. Tu lo stai cercando, sei in fase di guarigione, ci voglio almeno 3 mesi, non so se te l'hanno detto. Ci vuole, i mesi sono quelli, Tu ti ho detto che la mamma mi ha fatto tutto l'osso nuovo. Io l'osso non ne avevo, ma la mamma ha tutto ricostruito, mi ha messo una placca, mi ha messo un rinforzo, insomma, ci vuole il tempo suo, capito? Dopo già lo sai, ognuno è diverso dall'altro, Mi ha detto, ci vuole un po' di pazienza, adesso facciamo, ogni volta che lo chiamo, facciamo l'attacco e vediamo se stanno bene. Adesso mi ha detto che è tutto ok, vediamo a maggio e vediamo e così via, capito? Maria, eccomi qua. Ehi, ciao a tu, ehi Mari, certo, c'è, lo so, ci vuole tempo e soldi. Vabbè, tu a differenza mia stai spendendo quasi niente. Certo, stavo prendendo un po' di soldi, Mari, con me. Ehi, vabbè. Sarà pigliando in luci, no, tanto i soldi vanno e vengono, mi sa che vanno e non vengono. Avanti a tu. È un casino, di Napa nei ville, che manco di, cioè, non vedi niente, manco se li immagineggia che si mette in mezzo, cioè, magari come un pochettino lavorare più onestamente, no? Purtroppo è così, il lavoro stanno facendo tu. Capito? Vabbè, noi diciamo sono un po' fortunato, intanto, Luca, quello è l'azienda, noi versiamo un tanto ogni mese, hai capito? Prestiamo un tanto di mese, ma tu non sei pieno, tu non è che te ne accorgi, quella della comunità è quella lì, capito? Tu non è che te ne accorgi, perché io ho fatto su questa roba qua un saluto, io faccio l'ecografia al fegato, intanto faccio altri controlli e pago una cazzata, capito? Tutto qua. Io tu riprendi e mi stavo chiamando il cellulare. Cappa, Luia, ciuga e ciuga. Chi si fa zinchi travagli, se abbiamo molto di nasi, bigliane. A chi non ando a casa di chi c'ha niente, io, cazzo, non ripeto, c'hanno un lusso, c'hanno che. Cioè io non me lo posso permettere pagando un campo. Ma roba la macchina. Io muore di vamme. Anzo, se cos'è, noi ce ne freghiamo molte volte. Capito? Ma no, non me lo so sempre fregato. Adesso mi rendo conto che. È così, non te devi fregare una cosa, non so, fare un sacrificio, metti un tanto da parte, una serie di euro, 20 euro, e poi vabbè lo so, poi chi ha spese, è un casino, è isso, è un casino, non è proprio fatto Andrew, non è fatto, e vabbè, lo facciamo, pazienza, se mi fa, o via. Ti riprendo e vi saluto, vi sto chiamando e pronto alla cena. Ciao Luca, ciao Antonio, a domani se concilia, saluto tutti gli ascoltatori per me QRT. Avanti Antonio. Ciao, ciao Mari, ci risentiamo. Così, un po' di dinasso, che cazzo, quando ci penso, di cazzo del gatto oggi ho messo. Mamma mia, guarda, non me lo voglio manco ricordare. Per carità. Ciao Maria, alla prossima, dai. Ciao, buona cena, ciao. Chi è che vuole entrare? No, sono io, sono stato, Antonio, chiedo scusa. Ciao Luca, ciao Antonio, ciao ciao. Ciao Maria. Ciao Marco, ciao. Cosa Marco? Ma va. Cosa Marco? Buh. Ciao Antonio, ciao. Ciao Antonio. Saluto a tutti. Oh, io, cosa Marco? Buh. Non so ma come lo contano. Cappa, so qualcosa andà così fino a capo questa antenna, Antonè. Cazzo, lo sai che c'è staccata, manco della tarda c'è staccata. Quale? Quella che c'è giù? No, quella che ho preso ultimamente, mai più ne compro. Cosa ti ho detto io? Vabbè. Sapete tu cosa fare, lo sai tu. Riprendi la boomerang tu, quella che viene a me. Amore, è troppo. Troppo corto, troppo piccola. Scappa. Magari andrà pure meglio, niente di strano. Da giù in batte fa, che è una bellezza. Credimi, che è una bellezza. E poi già ne ho profetta, a casa di papà è dappertutto, quello lì. Cazzo, un guisante, vabbè c'è già in alto il palazzo, comunque. Ma arriva bene dappertutto. No, funziona bene tu. siamo riusciti a tarare la casa 1 e 1 anche. E poi lo stupo manco toccato, lo basta metterlo a 90 gradi lo stiletto. Già lo so come funziona. Chiappa, ma... Ma non è quello il problema, quella là funziona, quella che c'è in deposito. Diciamo che cazzo, c'è un quarreme allucinante, cazzo. L'ho provato a alzare oggi. Cazzo, mi ha gasino. Lo so, Anto. Cazzo, ma lì mi dà la bulletta dell'internet, un mese, 51 euro. Io di buona mamma, infatti, ma adesso già... Qui da pago, grigia... come si dice? E poi il sacco. Ah, se